il primo dei due, cioè Mussolini ha fatto anche cose buone, è stato un impeto, diciamo, di richieste da parte dei ragazzi che viaggiano insieme a me all'associazione di cui faccio parte, EINA, nei luoghi della memoria del Novecento. Io e molti miei colleghi organizziamo questi viaggi di memoria, il treno della memoria che accompagna i ragazzi verso luoghi appunto come Auschwitz, e da storico, indagando, facendo domande, chiacchierando con le ragazze e i ragazzi tra i 17 e i 25 anni che accompagniamo, abbiamo scoperto che moltissime delle bufale che il fascismo stesso aveva inventato sono ancora fortemente presenti nell'immaginario collettivo, e anzi oggi che hanno la possibilità di diffondersi attraverso i social sono più forti che mai. Quindi diciamo che il primo libro nasce da questa esigenza di fare un po' di debunking, un po' di chiarezza su quelle che sono le bugie che il fascismo stesso ha creato su se stesso e ha mandato in giro. Il secondo libro in realtà poi è arrivato a cascata, perché siamo ancora fascisti? Era la domanda principe che mi arrivava durante le presentazioni, quando raccontando delle bufale di Mussolini qualcuno molto spesso tra il pubblico si alzava e diceva: ma perché il fascismo si occupa ancora così tanto di noi? Perché siamo ancora così tanto fascisti noi italiani? Perché questi temi ci riguardano ancora così tanto? Ed è così che è nato il secondo. Certo, quindi insomma è anche una naturale conseguenza del primo, diciamo. Sì, assolutamente. A proposito di bufale, ci puoi fare qualche esempio di cose che riguardano il fascismo che continuano purtroppo a circolare? Ah, ce ne sono un sacco, ne ho alcune di preferite. Quelle che mi colpiscono di più sono per esempio le bufale riguardanti, che ne so, le pensioni, no? Dire che Mussolini abbia inventato il sistema pensionistico italiano e abbia dato la pensione agli italiani è una bufala molto, molto dura a morire, e tra l'altro molto facile anche da smentire, perché in Italia la prima legislazione riguardante la previdenza data addirittura a 1895, quando il nostro, per così dire, aveva 12 anni, quindi dubito che ci abbia messo mano lui. Il testo unico della previdenza in Italia è del 1898, e il diritto universale per tutti i lavoratori dipendenti sancito dalla legge in Italia è del 1919. Una bufala come quella, quindi Mussolini non ha fatto assolutamente nulla se non raccogliere i frutti di quella che potremmo chiamare il progresso dell'Italia liberale. Quello che mi colpisce di questa bufala è che ha una doppia valenza. La prima è quella di dipingere Mussolini come la figura paterna che sostanzialmente vuole bene ai nonni. Dire che ha regalato agli italiani le pensioni significa che ha dato stabilità e sicurezza a delle figure fragili della nostra società, come sono le nonne e i nonni, quindi darne un quadro assolutamente encomiastico. La seconda funzione di questa bufala, che è la più, secondo me, la più antipatica, quella che mi spiace di più, è far capire che Mussolini ha regalato un diritto fondamentale agli italiani, quando in realtà questo diritto fondamentale è stato conquistato attraverso delle lotte di piazza. Non a caso ho pronunciato le date delle tappe della costruzione del sistema previdenziale in Italia. Il 1898 è l'anno della famosa crisi di fame e delle lotte per il pane, è l'anno di Bava Beccaris che prende a cannonate la gente nelle strade. La previdenza, il testo unico della previdenza, è un modo per tenere buona la folla. Il 1919 è l'anno appunto della previdenza universale per tutti, è l'anno in cui nel cosiddetto biennio rosso la gente scende in piazza per vedere esaudite le promesse che il governo aveva fatto ai soldati durante la guerra che stavano in trincea. Quindi non sono regali, sono conquiste sociali pagate con il sangue da parte delle italiane e degli italiani. Dire che è arrivato qualcuno a regalare questo diritto è un po' come dire che gli italiani da sé non sono riusciti a costruire il proprio quadro di diritti, ed è una bufala doppia, antipatica in maniera doppia, diciamo. Ma ce ne sono molti. Il sottotitolo dell'altro libro è Un conto rimasto aperto. Ti volevo fare questa domanda perché appunto soprattutto l'anno scorso e neanche nel 2018 sembrava che il neofascismo riuscisse ad attecchire molto di più rispetto che in passato. È una sensazione o è così? Ma prima di tutto sono tra quelli che non credono molto alla parola neofascismo, perché parlare di neofascismo significa che c'è stato un vecchio fascismo a cui se ne è sostituito uno nuovo. Uno dei problemi di questo paese, che cerco di inquadrare nel libro, è che i fascisti dall'Italia non se ne sono mai andati. Nel 1945 finisce il fascismo come esperienza storica collegata a Mussolini, ma i fascisti rimangono ben presenti nella vita culturale, sociale e soprattutto politica italiana. Basti pensare al fatto che nel dicembre del 1946 un ex aderente al manifesto della razza come Giorgio Almirante, fonda insieme ad altri ex fuoriusciti dal regime della Repubblica Sociale Italiana il Movimento Sociale Italiano, che copre un cinquantennio di storia italiana. Tra l'altro mi viene da ricordare che il simbolo stesso dell'MSI, cioè la fiamma tricolore, è tuttora presente in Parlamento come simbolo di uno dei partiti eletti oggigiorno. Quindi io di solito non parlo di neofascismo perché è sempre la stessa cosa. C'è un continuum, certo. C'è un continuum drammatico. È vero che io mi affido molto alla lettura che ne dà Umberto Eco del fenomeno fascista, essendo il fascismo più che una filosofia, cioè non è un luogo di pensiero, non è un luogo in cui si formano le idee, il fascismo. È un movimento che viene definito più una retorica. Il fascismo è più un modo di dire le cose che non un modo per definire le cose, o meglio per pensare le cose. Quindi diciamo che da questo punto di vista il fascismo si insinua come una malattia della democrazia quando la democrazia ha dei problemi, quando la democrazia entra in crisi, quando la gente ha bisogno di risposte veloci, semplici a problemi complessi e non ha il tempo, non ha la volontà, non ha neanche la capacità di credere che la democrazia, cioè lo scambio politico, possa risolvere questi problemi. Ebbene, spesso accade che sogni che arrivi qualcuno, appunto qualcuno di paternalisticamente uomo, maschio, di una certa età, risolva i problemi. Il fascismo è una malattia della democrazia e si vedono i sintomi di questa malattia ogni volta che la democrazia in qualche modo viene trascurata. Non è un caso che anche negli ultimi tempi leggevo un sondaggio che mi ha colpito molto, non più di un paio di settimane fa, su Repubblica, in cui a un sondaggio il 40% degli italiani rispondeva che per risolvere l'attuale momento di difficoltà del nostro paese sarebbe auspicabile avere un uomo forte, quindi qualcuno che in barba alla democrazia scegliesse per tutti. Ecco, questo fascismo è un sintomo del fatto che non ci stiamo prendendo cura della nostra democrazia, quindi ogni tanto, ahimè, queste vampate di fascismo segnalano il fatto che dobbiamo starci attenti a quello che abbiamo.